Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Ben ritrovati cari amici sulle frequenze di Radio Maria in compagnia di Diego Manetti per questo appuntamento che si rinnova il primo sabato di ogni mese, un ciclo di conversazioni che tiene banco ormai da alcuni anni su un tema che abbiamo detto tanto bisognoso di essere riscoperto, il tema della vita eterna. E quando parliamo di questa necessità, cari amici, non mi riferisco anzitutto a quelli che sono lontani, quelli che, come si può dire, stanno fuori, ma anzitutto un'esigenza interna alla Chiesa stessa, perché tante volte abbiamo visto come proprio questo alzare lo sguardo verso il cielo, verso l'infinito, verso quel destino di gioia eterna che il Signore ci ha promesso, è un bisogno e un'esigenza per noi cristiani. E ricordo spesso quel sondaggio che è stato effettuato ormai una trentina di anni fa all'uscita di diverse chiese in Italia al termine di una messa domenicale e si chiedeva semplicemente: credi alla vita eterna? Ebbene, il 60% degli intervistati che erano appena stati a messa dissero no. Avevano ribadito la loro fede con il simbolo, avevano detto credo alla vita eterna, ma effettivamente non ci credevano. Allora in queste conversazioni, cari amici, tante volte abbiamo affrontato il tema dicendo è fondamentale guardare alla meta per dare piena così consistenza e significato alla vita, è importante guardare oltre l'ostacolo, è importante ricordarci che siamo fatti per il paradiso. E per testimoniare quanto importante sia questo annuncio da a ribadire soprattutto oggi, soprattutto per i giovani, ho voluto questa volta invitare un carissimo amico che è Don Gianni Castorani, che è il responsabile di una scuola di evangelizzazione nella quale alcuni ragazzi vengono invitati a offrire un anno a Dio, dare un anno per Dio per anzitutto fare proprio e poi così magari scoprire di desiderare di trasmettere a quanti più giovani possibile questo grande annuncio, l'annuncio che Cristo è risorto e in questa promessa di vita eterna, in questa buona notizia sta la possibilità di un grande riscatto. Quindi anzitutto Don Gianni ti do il benvenuto nella grande famiglia degli ascoltatori di Radio Maria. Diego, grazie per questo invito. Sono proprio contento di averti qui, vorrei proprio lasciarti subito la parola perché forse hai anche qualcuno dei tuoi giovani disponibile per una testimonianza, per cui ti dico senz'altro di introdurre un po' quella che è la realtà dell'evangelizzazione concretamente in cui vivi e fare un po' così di spazio anche attraverso la voce dei giovani per raccontare la vostra esperienza. Sì, questa scuola di evangelizzazione è nata da padre Daniel Ange negli anni Ottanta. Daniel Ange è un monaco benedettino che originariamente è eremita. Lui torna da 12 anni in Ruanda negli anni 60-70 e vede l'enorme differenza tra la chiesa africana piena di giovani, di entusiasmo e di gioia e la Francia degli anni 60-70 e quindi rimane sconvolto dal vedere questa enorme differenza, una Francia che in cui si abbandona la fede, in cui le parrocchie si svuotano, e allora rimane scioccato da questa differenza. E allora decide di ritirarsi in un eremo a pregare e chiedere a Dio una risposta. E dopo 7 anni arriva questa risposta da parte di un ragazzo di 17 anni che si chiama Martin, e questo Martin, ecco, gli dice a Daniel Ange che lo ringrazia perché ha avuto il coraggio di parlare della paura dei giovani, la paura per il domani, la FIFA per l'avvenire. E gli dice questo ragazzo che nel suo collegio in Francia non c'è nessuno che ascolta. E gli dice proprio questa frase: nel mio collegio 3.500 studenti, nessuno che ascolta e che ci consola. Siamo i martiri della vostra indifferenza. Chiesa, che cosa fai ai tuoi figli? E poi dice una frase che colpisce il cuore di Daniel Ange: voi curati e funzionari della Chiesa non avete nessun ruolo nella mia scoperta con Dio, dovete rendere conto a Dio della distruzione delle nostre anime. Chiesa, che cosa fai dei tuoi figli? E questo, ecco, è l'SOS. Daniel Ange dice che l'SOS di Troade, in cui, ecco, questo giovane lancia questo appello a Paolo che decide, ecco, di rispondere. E questo è, ecco, l'inizio, ecco, un po' dell'esperienza della scuola. E poi Daniele Angel, andando in missione, ecco, in questa scuola, capisce che i migliori testimoni dei giovani sono i giovani stessi. E allora porta con sé dei giovani in missione e vede l'impatto forte che i giovani hanno, ecco, sui giovani. Allora lancia l'appello, dopo alcuni anni di itineranza, tra contemplazione e missione, ai giovani di lasciare tutto per un anno, dare un anno a Dio. E da lì ecco nasce questa esperienza in Francia, negli anni ecco 80, nell'84 la prima esperienza, ed è un'esperienza molto bella, ecco questo è l'inizio. E questa è un'esperienza che poi è stato possibile riportare anche in Italia. Dopo quanto tempo è cominciata in Italia questa avventura? Allora in Italia è iniziata nel 2007, io sono stato in Francia dal 98 al 2001, 3 anni, è inviato ecco, dal cardinale Piovanelli, all'epoca era vescovo di Firenze, e poi il cardinale Antonelli che è arrivato dopo, e tornando ecco, da questa esperienza in Francia, ho sentito ecco, questa chiamata con Daniele Angeli di portarla in Italia, e ero da solo, per cui ho iniziato pian pianino ad andare in strada a Firenze, in Santa Croce, e poi pian pianino è nato un gruppo di giovani. E da questo gruppo di giovani sono sorte quindi delle chiamate per rispondere a questa scuola, a questa fondazione che è iniziata nel 2007 a Firenze. Il tuo inizio di cammino, Don Gianni, è stato però da laico, se non ricordo male. Tu ti sei Sì. coinvolto. Come è nata poi la tua vocazione, se posso chiederti, visto che immagino che tanti di coloro che sono all'ascolto hanno anche questo interesse, no? Proprio per il discernimento vocazionale, per magari rispondere a questi interrogativi sul proprio cammino. Sì, allora nasce un po' più da lontano la mia vocazione. Devo raccontare ecco, un pochino la mia nascita perché io sono il secondo figlio, siamo in due, e tra me e mio fratello sono 18 anni di differenza. E mia mamma non riusciva ad avere un secondo figlio. Allora ha fatto una novena alla Madonna e ha detto: Maria, se tu mi darai un figlio, io lo darò a te. Quindi ero spacciato prima di nascere, non ci avevo scampo. E in questa novena, alla fine della novena, ha fatto un sogno, ha visto Gesù in cielo con l'immagine quella del Sacro Cuore, e a destra degli angioletti vestiti di azzurro e a sinistra vestiti di rosa. E Gesù dice: chi vuole andare a questa mamma? E parte un angioletto vestito d'azzurro. E mia mamma dirà: farò un figlio maschio. Ecco, infatti poi rimane incinta. E quindi posso dire che la mia vocazione nasce ancora prima, ecco, di quello che io posso poi scegliere. E credo che la vocazione sia veramente una chiamata, di Dio che noi abbiamo ancora prima della nostra nascita. Non è altro che scoprirla. E poi io sono stato in parrocchia fin da piccolo. Dovevo diventare un calciatore di Serie A, già a 18 anni andare all'Inter, a Fiorentina, però ecco poi queste strade si sono chiuse e allora io mi sono un po' ribellato e ho cominciato a fare una vita molto mondana, a buttarmi ecco nelle relazioni, in discoteca, sesso, successo, un po' tutte queste cose qui che vivono tanti giovani anche oggi, finché poi dopo 7 anni di fidanzamento, all'età di 23 anni, ci siamo lasciati. Mio papà ha avuto un ictus e in questo momento di dolore ho gridato a Dio, ho detto: Dio, se tu ci sei, dammi un segno che ci sei. E mentre facevo questa preghiera, il Signore mi ha risposto. Come mi ha risposto? Mi hanno invitato a Rimini, a un incontro di rinnovamento 94, e c'era un sacerdote, padre Tardif, che durante la preghiera di guarigione ha detto: c'è qui una persona paralizzata da 18 anni, in questo momento Gesù ti guarisce, alzati e cammina. E questo sarà un segno per te. Io quando ho visto questa persona alzarsi dalla carrozzina e iniziare a camminare, sono rimasto sconvolto. Ho vissuto un momento, no, di cielo, di vita eterna. Veramente ho fatto un'esperienza incredibile dell'amore di Dio e da lì ho iniziato ecco, a cambiare vita e fare un cammino ecco, di fede. e mi chiedevo, no, che cosa voleva Dio da me. E dicevo, tutto, Signore, ma prete proprio mai. Veramente, Signore, è l'ultima cosa a cui voglio rispondere. Però ecco, mi voglio impegnare nell'evangelizzazione. Quindi io all'epoca lavoravo in banca, però consacravo tutto il mio tempo libero e anche le vacanze alla missione, all'evangelizzazione. Finché poi ho incontrato Daniel Ange e sono andato in Francia, ho preso una aspettativa. E quindi ho sentito una chiamata forte all'evangelizzazione. Posso dire che la mia prima vocazione è la chiamata ad annunciare il Vangelo come laico, perché sentivo maggiore libertà per annunciare il Vangelo. Poi, quando è iniziato questo mio di evangelizzazione alla scuola in Francia, poi abbiamo deciso di aprirla in Italia, ecco lì, in questa scia che era già partita, ho sentito questa chiamata, ecco, al sacerdozio, che già c'era prima, però si è inserita dopo. Questo è molto interessante per me, perché non è che ho sentito prima la chiamata al sacerdozio, ma prima ho sentito la chiamata all'evangelizzazione e poi al sacerdozio, e questa l'ho sentita proprio nell'evangelizzazione di strada. Mi ricordo sempre in una missione in Sicilia, in cui si faceva la luce della notte, evangelizzazione di strada, sono entrati tanti ecco, giovani, e tra cui una che entra in chiesa, una ragazza, e apre il suo cuore e mi racconta, ecco, tutta la sua storia. E io la voglio portare a confessare, no? Però non c'era neanche un prete in quel momento. Allora dico, possibile, Signore, neanche un sacerdote per confessare questa ragazza? E quando faccio questa preghiera sento nel mio cuore una voce che mi dice, ma io ho chiamato te. E lì sono rimasto veramente colpito da questa voce e ho detto sì. Come dice Geremia, no? Signore, tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Per cui ecco, la mia vocazione è nata proprio rispondendo prima di tutto all'annuncio del Vangelo. Io penso che la vocazione di ogni cristiano è annunciare il Vangelo, no? Nell'amore. E strada facendo ho scoperto, ecco, poi qual era la mia vocazione. Io sono diventato sacerdote a 40 anni, per cui anche abbastanza tardi, no? Però ecco, dall'età di 23-24 anni ho sempre ricercato la volontà di Dio annunciando il Vangelo. Mi colpisce nel sentire la tua esperienza, Don Gianni, una conferma preziosa a quanto la Regina della Pace ci lascia intendere attraverso i suoi messaggi tutte le volte che chiede di pregare in famiglia, e così collega questa richiesta di preghiera in famiglia e il desiderio di avere famiglie sante al frutto che ne può conseguire, avere sante vocazioni. Mi colpisce molto la fede che ha avuto la tua mamma nel chiedere un figlio quando magari da un punto di vista umano le speranze non erano molte, con l'apertura del cuore di donarlo a Dio perché potesse essere un sacerdote. Quindi il fatto che ci fosse proprio, come si può dire, una fede che ti ha generato e una vocazione che ha preceduto ancora la tua esistenza. E poi, come dici tu, la chiamata all'evangelizzazione prima ancora che al sacerdozio, perché questo penso che sia il caso anche magari di tanti dei ragazzi che hai incontrato tu in questi anni, perché so che attraverso le diverse annate della scuola sono nate anche delle vocazioni, magari di ragazzi che pensavano anzitutto di impegnarsi nell'evangelizzazione e poi si sono sentiti chiamati in modo più radicale. Sì, perché quando si risponde a questa chiamata all'evangelizzazione si ha il cuore aperto, perché si comincia a pregare, si comincia a testimoniare, e quando si testimonia la fede, se non c'è il Vangelo, il cuore si apre. Ho visto proprio questo, che l'evangelizzazione è veramente una accelerazione nel cammino di fede vocazionale, perché se tu ti apri all'annuncio andando nelle scuole, nelle strade, nelle piazze, spiagge, discoteche, cioè, come dice Papa Francesco, una chiesa in uscita, il Signore ti parla. A me mi ha parlato proprio nella missione, cioè proprio nelle persone che incontravo, e questo mi ha molto colpito, perché una delle domande che fanno spesso i giovani, no, è questa: ma come hai fatto a capire che quella era la strada giusta? Ecco, io dico sempre che quando uno si apre al Vangelo e lo annuncia, perché Paolo VI dice nei Vangeli Nunziandi che la Chiesa esiste per evangelizzare, è la sua vocazione propria, è nata per questo. Quando uno fa ciò per cui è nato, ciò per cui è chiamato, il Signore interviene e risponde. Perché quando si evangelizza ci si mette in gioco, si rischia, si va verso gli altri, no? E questo mettersi in gioco, questo aprirsi, questo andare verso gli altri, permette a Dio, ecco, di parlarti. E questo, ecco, secondo me è molto importante oggi, proprio rispondere soprattutto all'annuncio del Vangelo, come ci dice la Madonna, no? Voi siete i miei apostoli, apostoli del mio amore, apostoli della misericordia. È importante questo, rispondere a questa chiamata. Ti posso chiedere, Don Gianni, quindi in concreto, un ragazzo che decida di dare un anno per Dio e voglia entrare nella scuola, che cosa si aspetta? Come è organizzata? Quali tipi di impegni? Qual è la proposta che gli rivolgete? Allora, un anno è un anno proprio di consacrazione, cioè è un anno proprio in cui un giovane consegna la propria vita al Signore facendo delle promesse nelle mani del Vescovo, promesse di castità con gioia, povertà con gioia e obbedienza con gioia. Questa caratteristica della gioia è molto importante. La gioia è segno di un cuore che si dona e quindi è molto importante, ecco, rispondere a questa chiamata. E poi fanno anche altri impegni, quali il perdono permanente. Questa è una cosa che mi colpisce tantissimo nei giovani. In tutti questi anni ho sempre visto questa apertura, cioè ogni sera prima di andare a letto ci si perdona, come dice Paolo, no? Non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Allora, ogni sera prima di andare a letto un perdono, anche se sono state piccole cose. E se non ci sono state cose particolari, comunque ci si benedice facendoci sulla fronte un piccolo segno di croce e donando la benedizione al fratello e dicendo una cosa bella. Oggi ho visto questa cosa bella in te, ti ringrazio. E questo è un altro aspetto importante, no? Guardare l'altro con gli occhi di Dio, quello che Daniele Ange chiama lo sguardo profetico, cioè vedere la bellezza che c'è nell'altro e rivelargliela. Diglielo, guarda che questa cosa che tu hai fatto è bella, questo è un tuo dono. Allora così pian pianino ci si apre gli uni gli altri e poi siamo capaci, una volta che si instaura la fiducia, siamo capaci anche di andare più in profondità, di dire la verità, di fare una correzione fraterna. Ma questo parte, ecco, non dal giudizio, la correzione fraterna, ma parte dalla fiducia, parte dal vedere la bellezza che c'è nell'altro. Questo è molto importante. E poi i pilastri della scuola sono quattro: preghiera, formazione, vita comunitaria e missione. Quindi la preghiera abbiamo le lodi la mattina alle 7:30, poi abbiamo la meditazione della parola, poi c'è la colazione in silenzio, poi i servizi, poi ci sono i corsi, quindi un paio d'ore la mattina, poi c'è una piccola preghiera tipo ora media. Il pranzo, poi un'ora di tempo libero, altre 2 ore di corso, la messa e l'adorazione, e poi la cena, e poi dopo cena altre attività, tipo testimonianza del relatore che fa il corso, prove dei canti, serata libera, dipende un po'. Però ogni giorno, ecco, sono circa 3 ore, 3 ore e mezzo di preghiera, che per un giovane sono tante, però ti posso dire che è proprio questa che trasforma il cuore. Daniele Ange la chiama, come dicono in Oriente, la divinizzazione, cioè essere trasformati. E poi ci sono i corsi, quindi ogni settimana sono 14 ore a settimana, dal lunedì al giovedì, 14 ore di corso su varie tematiche, di base un po' sulla fede, sulla persona umana, conoscenza di sé, spiritualità, discernimento vocazionale, temi di attualità. Tutto questo in chiave missionaria, cioè avere questa attenzione poi di annunciare il Vangelo. Per esempio, se c'è un corso di cristologia, come annunciare Cristo ai giovani? Quali modi, quali parole, quale linguaggio, quali metodi? E poi appunto l'altro aspetto, dicevo, è la vita comunitaria, in cui gli impegni, ecco, sono questi che dicevo prima, e la vita comunitaria è fondata su quattro pilastri che sono: che ci diciamo, ecco, all'inizio dell'anno, alla prima messa del giovedì: grazie di esistere, sei un dono per me, mi fido di te, ho bisogno di te. Sembrano parole un po' buttate lì, no? Ma in realtà sono molto profonde, perché dire a una persona grazie di esistere vuol dire che ci sei, vuol dire che non sei indifferente e quindi io entro in relazione con te, e se entro in relazione con te, tu diventi un dono per me, io ho bisogno di te, mi fido di te. Allora questo ci fa crescere, perché ci fa entrare in un rapporto trinitario, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono in relazione continua tra di loro, così anche noi siamo chiamati ad essere in relazione tra di noi per ricevere amore e dare amore, che siamo creati per questo, per essere amati e per amare. E poi ogni 3 mesi in missione, ogni 3 mesi 15 giorni di missione, scuole, strade, spiagge, piazze, discoteche d'estate. Ora con il coronavirus è un po' più difficile, però ecco, cerchiamo comunque di evangelizzare in altri modi, però ecco, questo andare è molto molto bello. Ti voglio chiedere una cosa in particolare relativamente alle promesse a cui hai fatto riferimento prima. Ogni giovane che si impegna, ad accogliere quelli che poi sono i consigli evangelici della povertà, della castità e dell'ubbidienza con gioia. E quando hai fatto questo riferimento alla gioia, mi è subito venuto in mente il discorso che Gesù tiene con i suoi apostoli nell'ultima cena, invitandoli ad accogliere la sua parola e la promessa di una gioia che sarà la gioia piena. Tante volte anche la Madonna ci ha esortati a non cadere nelle trappole del maligno che ci propone una falsa gioia, una falsa luce, una falsa pace, invece la vera gioia. Ti voglio chiedere questo, visto che non credo che, mi esprimo così, saranno tutti chirichetti quelli che arrivano alla scuola di No. evangelizzazione, ma ci saranno cammini diversi. Ma tu hai sperimentato nella testimonianza, nella vita di ragazzi, il fatto che, vinta forse una paura iniziale, fare le promesse non è, come si può dire, per chi già è pronto, ma è qualcosa che rende pronti, cioè hai potuto sperimentare che questo impegnarsi con Dio è in realtà Dio che si impegna con i ragazzi e li ha fortificati nella virtù e nella vita cristiana? Sì, è proprio così, guarda. Mi viene in mente proprio l'alleanza che Dio fa con Abramo, no? Nell'Antico Testamento, in cui Abramo aspetta, ecco, Dio prende, ecco, gli animali per il sacrificio e li squarta in due, no? E secondo quella che era l'alleanza nell'Antico Testamento, il più debole deve passare in mezzo. No? E il più forte dice: guarda, che se non sarai fedele a questa alleanza farai la stessa fine. Allora ecco, Abramo aspetta, e in realtà invece di passare Abramo, che è il più debole, passa Dio con il forno fumicante, no? Con il fuoco, passa in mezzo e brucia. E Dio dice ad Abramo: guarda Abramo, se io non sarò fedele a questa alleanza farò la stessa fine. Poi Dio quella fine la fa per amore, per andare in fondo a quella. Però è così, cioè è Dio che è fedele, è Dio che fa alleanza con noi, non siamo noi che diamo qualcosa a Lui, in realtà è Lui che dà qualcosa a noi, cioè le promesse che noi facciamo in realtà è un dono che riceviamo, è una grazia di Stato che riceviamo. Io ho visto nei giovani, anche quelli più lontani che vengono da storie anche difficili, in cui per loro la castità è anche difficile da vivere, no? Ho visto invece in questi anni come si sono fortificati e come queste promesse in realtà è una sfida lanciata a Dio di dire: guarda, io ecco sono quello che sono, no? Però conto su di te. E il Signore interviene e alla fine dei 9 mesi ti posso dire che c'è un vero e proprio cammino di trasfigurazione, perché un anno qui sono come 10 anni fuori per intensità, ecco, di cammino. È un corso accelerato nella vita spirituale. Tu hai citato il fattore tempo, ma proprio del cristianesimo è il fatto che Dio si comunica in un tempo, ma anche in un luogo preciso. In questo caso lo spazio è proprio quello della scuola. Io ho avuto occasione di venire alcune volte già a trovarvi, siete in un posto bellissimo. Raccontaci qualcosa di questo luogo che penso sia anche carico di significato e apre a, come si può dire, profondità ulteriori questa missione di evangelizzazione. Sì, si chiama Monastero dello Spirito Santo, si trova a Bagnaripoli, ecco, in provincia di Firenze, sulle colline, come dicevo, un posto meraviglioso, in mezzo al verde, in mezzo agli ulivi, è la zona del Chianti, quindi è una zona bellissima. E in questo posto c'è il corpo di una santa che si chiama Santa Umiltà, il corpo intatto, incorrotto. Santa Umiltà di Faenza, nasce fine 1200, muore nel 1300 e è una storia simile a quella di Santa Rita. Lei infatti è prima sposata, poi i figli muoiono prematuramente, poi ecco, lei fa un canone di consacrazione finché poi non fonda ecco, le monache benedettine vallombrosane, che sono il ramo femminile dei monaci di Vallombrosa fondati da San Giovanni Gualberto. E lei viene, siccome ha delle visioni, delle apparizioni con la Madonna, con i santi, San Giovanni Evangelista in una visione gli dice di venire a Firenze e lei fonda questo monastero a Firenze. E praticamente sono 700 anni che questo corpo ecco, è qui in questo monastero e è una grazia, veramente 700 anni di preghiera. Chi mette piedi in questo luogo sente veramente una presenza. E quindi per noi è una grazia perché c'è il suo corpo, poi c'è il corpo della Beata Margherita che è la seconda badessa dopo di lei. E poi c'è una storia singolare. E lei, Santa Umiltà, durante un'apparizione della Madonna, Maria gli mette in braccio un bambino, il bambino Gesù. E lei è talmente estasiata da questa esperienza che la racconta alle sue sorelle e fa fare Gesù bambino in legno, lo fa fare in legno, e questo Gesù bambino in legno a un certo punto, una sera compiuta la benedizione finale, si anima, tira su la manina e benedice le suore. E ancora oggi questo bambino è qui da 700 anni ed è considerato miracoloso. Proprio in questi giorni ho ricevuto testimonianze di due coppie sterili che non riuscivano ad avere figli. Sono venute qui, hanno pregato, hanno preso in braccio il bambino e ho ricevuto testimonianze proprio che adesso sono in attesa di un bambino, ma 3-4 in questi ultimi mesi e poi anche tante grazie anche di guarigione sia interiore del cuore sia anche da malattie come tumori eccetera, quindi è un luogo di grazia, veramente un luogo di grazia, è come quando uno va a Medjugorje o va nei luoghi di grazia, ecco, io sento qui un luogo di grazia, quando le persone entrano qui dentro sentono ecco, che c'è una presenza. E questa è una caratteristica, una presenza proprio dello Spirito Santo, perché è il monastero dello Spirito Santo. Se questa è una caratteristica che percepisce chi viene magari per una preghiera fugace, per chiedere una grazia, credo che sia ancora più vero per i ragazzi che vi trascorrono un anno. E proprio per questo volevo chiederti su quei quattro pilastri della convivenza di cui parlavi prima, il fatto di riconoscere nell'altro poter dire grazie che esisti, tu sei un dono e poi mi fido di te e ho bisogno di te, pensando che magari all'ascolto ci sono anche tanti giovani, tante persone che vivono esperienze le più diverse di comunità, e volevo chiederti di approfondire questo punto, cioè come poter arrivare a dire ho bisogno di te quando l'altro facilmente tendiamo a giudicarlo o a vivere con sofferenza anche il dover dividere degli spazi, perché io penso che per tanti ragazzi la difficoltà sia anche un po' quella di abituarsi alla vita di un monastero dove gli spazi non sono quelli della casa privata e dove sei un po' sempre sotto lo sguardo dell'altro. Come si arriva, Don Gianni, a dire ho bisogno di te? E questo, vedi, è proprio una bella domanda. Io penso che si arriva a dire questo come risposta a una solitudine che c'è nel cuore dei giovani. Cioè, i giovani oggi vivono una grande solitudine e quindi la cosa più bella che io vedo qui è la fraternità. Cioè, quando i giovani vengono qua e stanno anche solamente una settimana, succede un miracolo. Ed è il miracolo proprio della fraternità. Gesù dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E questa presenza di Gesù in mezzo ai fratelli, come dice il Salmo, come è bello che i fratelli vivano insieme, come olio profumato che scende sulla barba delle donne, là il Signore dà la benedizione. Allora, innanzitutto è una grazia, prima di tutto, e la prima cosa che noto è proprio la grazia di sentirsi amati e accolti e bisognosi, ecco, di vivere con gli altri. Quindi, prima cosa che vedo è proprio questa. Poi dopo, quando si approfondisce il cammino, quando si comincia a stare insieme dopo un po' di tempo, si comincia anche a vedere i difetti dell'altro, a vedere i problemi dell'altro. Però nella vita comunitaria non dobbiamo tanto cambiare noi gli altri, ma cambiare noi stessi. E questo è molto importante, cioè l'altro un po' mi fa da specchio e quindi le cose che mi danno fastidio dell'altro in realtà sono le cose cui io devo cambiare. Ed è molto bello, mi viene in mente Madre Teresa, no? Quando un giornalista gli fa questa domanda, no? Una domanda anche attuale, no? Di oggi, e gli dice: Madre Teresa, che cosa cambierebbe lei nella Chiesa oggi? E Madre Teresa gli risponde: cosa cambierei? Cambierei io e lei. Quindi, come dire, dobbiamo partire da noi. E questo ecco che cerco un po' di trasmettere e di vivere. Posso solo cambiare me, cioè il Signore può cambiare solo me, non l'altro. Allora, ecco, il giudizio sull'altro diventa, come dire, una solitudine poi, alla fine, no? Sappiamo chi è colui che giudica i fratelli, no? Il demonio ha proprio questa attività di giudizio, quindi quando noi ci mettiamo a giudicare, in realtà stiamo dividendoci dall'altro. Allora ci rendiamo conto che abbiamo bisogno dell'altro, perché per esistere abbiamo bisogno dell'altro, da soli non si va da nessuna parte, no? Senza l'altro io non esisto, perché è la relazione che mi fa esistere. Cioè, quando mi metto in relazione con qualcuno io scopro chi sono. Se io non sono in relazione con nessuno, non scopro chi sono. L'essere umano, la persona, è fatta proprio per la relazione. E quindi dire all'altro ho bisogno di te, mi fido di te, grazie di te, sei un dono per me, diventa, come dire, un trovare se stessi, alla luce di Cristo, trovare se stessi, scoprire chi sono, cosa voglio e dove vado. Questo è il cammino che noi facciamo di conoscenza di sé. Ed è impossibile, possibile conoscersi senza la vita comunitaria, senza la fraternità. Questa decisione di cambiare se stessi richiede molto, molto coraggio, come penso ci vada coraggio per decidere di dedicare un anno a Dio. Sempre più spesso mi accorgo quando arrivo con gli studenti della Quinta, al liceo dove insegno storia e filosofia, che la paura vera è quella di essere un po' entrati in una sorta di tritacarne dove dal superiori vieni buttato all'università, poi nel mondo del lavoro, poi magari con una famiglia, finché arrivi alla pensione. Aspettando chissà che cosa, che poi spesso è semplicemente una morte prematura. E vedo i ragazzi che quasi chiedono di essere ascoltati in una domanda che hanno fin paura a tirar fuori. Vorrei prendermi un anno sabbatico, che non è la pausa per andare a fare surf in Australia, ma un anno per ascoltarsi. E vedo che spesso i genitori fanno fatica ad accettare questo. Sicuramente la scelta di spendere un anno per Dio è dettata dal dire le priorità della vita sono altre da quelle che il mondo mi elenca come le più importanti. Non c'è soltanto il lavoro inteso come un'opera salariata, ma c'è anche un servizio gratuito per annunciare una buona notizia. Ti chiedo, su questa scelta, su questo cammino di un anno, come in modo particolare si innesta quell'annuncio di vita eterna che poi è il cuore di quella buona notizia che Gesù ci ha portato? Cioè, come nel cammino che fai con i ragazzi della scuola di evangelizzazione rimane sempre presente questo invito a sollevare lo sguardo e a ricordarsi che siamo pellegrini sulla terra, ma diretti verso il cielo. Sì, è proprio così perché quando noi preghiamo non facciamo altro che entrare in questa dimensione della vita eterna. La liturgia è già il cielo sulla terra. Vivere l'amore qui e ora è già vivere la vita eterna, perché se Dio è amore e la vita eterna è amore, sono già nella vita eterna. Cioè tutto quello che faccio in relazione con la vita eterna cambia il mio sguardo su me stesso, no? Diceva San Francesco, tanto è il bene che mi aspetto che in ogni pena mi diletto. Cioè, tanto è lo sguardo che io ho verso l'eternità, verso questa bellezza, che questa vita eterna è già qui ora, no? È la vita di Dio, vivere da Dio, vivere in Dio. E questo lo sperimentiamo qui nella quotidianità, come facendo ogni piccola cosa con amore. No, il Vangelo oggi diceva: chi sarà fedele nel poco, sarà fedele nel molto. Cioè, il poco è questa vita qui che noi passiamo, il molto è l'eternità. Quindi, se io vivo con fedeltà, questa vita che è poco, nel senso che è corta, che è breve, la Madonna ci dice, no, a me ci vuole che è un battito di ciglio questa vita, no, in confronto all'eternità. Se io già vivo qua, questa esperienza di amore, facendo ogni piccolo servizio con amore, mettendo a posto le cose con amore, spazzando con amore, cioè cercando di mettere l'amore in ogni piccola cosa che faccio, questo trasforma il cuore di un giovane, perché noi non siamo abituati a fermarci, come dicevi te, no? Un giovane è in una corsa incredibile, in uno stress incredibile, in un'ansia incredibile. E quindi rallentare il cammino e andare al passo umano e rientrare in se stessi cambia completamente la vita. Penso davvero che un anno qui riorienta le scelte, per esempio, delle persone, riorienta la vita, perché uno ha la possibilità di fermarsi, ha la possibilità di rientrare in se stesso, come fece il figlio prodigo, no? Che a un certo punto rientra in se stesso e dice: ah, ma nella casa di mio padre, ecco, no, posso tornare. Allora, ecco, è un anno per rientrare in se stessi, per la vita interiore. E è impossibile essere felici senza questa vita interiore. Qui si scopre una vita interiore che è ascolto di sé, ascolto dell'altro, di Dio che mi parla, attraverso le cose concrete della vita. Allora veramente ogni cosa, ogni gesto, ogni sguardo, no, ha un sapore di vita eterna. Daniele Angi dice nel libro di vita che ha scritto per la scuola, dice: vivi con la persona ogni giorno come se tu dovessi partire domani. Se tu ti viene detto: guarda, che domani muori, come vivresti oggi? Ecco, questa è una cosa che cerchiamo di vivere qui, cioè domani non ti vedrò più. Allora, quante volte, no, le persone sentono in colpa perché non hanno vissuto con amore i propri cari, chi gli è stato accanto, no? Specialmente in questo momento difficile, no? Di coronavirus, di pandemia, in cui veramente la morte ci è messa di fronte, no? E allora qui davvero noi sperimentiamo, no? Come dicevi tu prima, no? Crediamo nella vita eterna, diciamo il credo, ma crediamo nella vita eterna. Perché nella vita eterna bisogna incontrare Cristo qui. Io penso che questo sia. Stando proprio sull'attualità che citi, con questa seconda ondata di pandemia che ci porta a vedere stravolte le nostre abitudini quotidiane, limitate le nostre libertà, penso che ci sia stata per tanti, l'occasione di disperarsi o rifugiarsi, ecco, in futili evasioni per non pensare al problema, per tanti invece è stata l'occasione per ritornare a Dio. Mi colpisce come nei momenti dove più si guarda alla prova, alle difficoltà del futuro, la Madonna dica sempre che tutto dipende dalla nostra conversione. Quando penso a questo termine nel senso latino, no, del convertere come girare, è un po' come se uno dicesse: dipende da che parte ti giri, dipende da che sguardo hai sulla realtà. Tu prima citavi il rapporto con se stessi, con gli altri, con Dio, sono un po' i tre orizzonti, nei quali si può cambiare questo sguardo. Si può dire allora che la scuola diventa per gli stessi ragazzi che la frequentano una occasione per un cammino di conversione. Ah sì, è proprio così, è proprio così, è proprio un cammino di conversione. Spesso, no, noi diciamo che ci siamo convertiti, ma non è tanto giusto dire che mi sono convertito, perché la conversione è un processo che inizia e non finisce mai, è tutta la nostra vita convergere, ritornare, no? Come dice la parola in greco, metanoia, cioè cambiare mentalità, cioè cambiare veramente orientamento, direzione, pur se io, anche se io sto facendo un cammino di fede. e mi colpisce molto il commento che fa Sant'Agostino al Vangelo di Giovanni quando parla di Maria Maddalena che è al sepolcro, no? E che nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, lei incontra il giardiniere, no? Parla con il giardiniere e dice dove, non si rende conto che sta parlando con Gesù, parla con lui, dice dov'è che l'hanno posto, dimmelo, andrò a cercarlo. E Gesù la chiama per nome, dice Maria, e lei, dice Giovanni, si voltò. Come si voltò? Dice Sant'Agostino, ma non stava già parlando con Gesù. No, dice Sant'Agostino, qui avviene la conversione di Maria Maddalena, dice Agostino, cioè si voltò con il cuore, cioè orientò la sua vita dalla morte alla vita, cioè prima guardava questo Gesù morto, no? Nel sepolcro, che non c'era più. Poi dopo, quando Gesù la chiama, lei passa dalla morte alla vita. La conversione penso sia questo, cioè passare da una vita morta a una vita viva con il vivente. Allora cambia tutto, perché quando la mia vita è orientata a colui che è la vita, che è risorto dalla morte e ha sconfitto la morte, le mie preghiere, la mia relazione con Dio non è più una relazione con un morto, perché tante volte ho l'impressione che noi preghiamo, ma preghiamo uno che è morto, cioè non ci crediamo davvero a questo Signore risorto, non entriamo in questa relazione con Lui. E allora la nostra vita di fede diventa noiosa, la preghiera diventa pesante. Allora ecco, questa parola qui di Agostino mi ha sempre colpito molto, no? Che Maria Maddalena si voltò, ecco, con il cuore. E quindi la conversione proprio sia questo essere tutti rivolti verso Cristo, protesi verso di Lui. Allora la vita cambia, allora l'esperienza di Cristo vivo non ti fa più guardare al tuo passato come qualcosa che è una morte, ma ti fa rivolgere la vita a Lui. E questo è un cambiamento enorme. Diceva Cantalamessa in una catechesi, è come essere condannati a morte, ma come se tu sei in carcere, ti hanno condannato a morte, a un certo punto arriva un soldato che ti dice ti è stata fatta grazia, ti è stata fatta grazia. Come passerà il tuo cuore? Il tuo cuore passerà dalla morte alla vita. Questa è la conversione, no? Passare dalla morte alla vita. È molto bello il riferimento che hai fatto di Maria Maddalena e avviandoci alla conclusione di questa prima parte della trasmissione, poi lasciando tra poco spazio per le telefonate in diretta, mi piace proporre agli ascoltatori ancora un possibile parallelismo con un'altra bella figura che è quella di San Tommaso. Spesso la vulgata popolare ne ha fatto quasi l'incredulo per antonomasia, quando è il contrario, perché sappiamo che dopo aver visto, contemplato, toccato le piaghe e le ferite del risorto, esce dalla bocca di Tommaso quella bellissima professione di fede, mio Signore e mio Dio. E possiamo dire che anche lui ha visto e ha creduto, laddove vedendo colui che era un uomo resuscitato, come poteva anche Lazzaro, in realtà riconosce il Signore Dio, colui che, essendo il Signore della vita, può risorgere. Allora questa prospettiva della vita eterna si sposa con l'idea della conversione, perché senza il risorto che ti apre queste porte della vita eterna non ci sarebbe un'opportunità. Credo che davvero possa essere questo il di più e il dono grande che possono incontrare i ragazzi che vivono l'esperienza, ecco, della scuola di evangelizzazione. Allora, lasciamo adesso un piccolo momento di pausa musicale, poi aspetto, cari amici, le vostre telefonate con le domande, come sempre brevi e soprattutto in tema con quanto presentato da Don Giovanni, per poter approfondire proprio con lui un po' le domande. Pronto? Pronto? Sì, Sono prego, Fernando parli. Granovas da San Benito Po di Mantova. Volevo chiedere, è Don Gianni? Sì. Niente, è stata bellissima la sua, diciamo, esposizione, proprio perché è stata la sua mamma che ha visto la Madonna. Io ho fatto un'esperienza di Romani che mi conosce un po'. perché lo sono andato ad ascoltare lì vicino al lago di Garda, e praticamente dovremmo chiamarle di più mamma la Madonna, perché è soprattutto mamma per noi, per tutta la Chiesa. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Ecco, intanto che la regia può selezionare tra le chiamate che sono in entrata, mi piaceva così confermare un po' sull'ultimo intervento l'importanza di riconoscere nella Madonna una mamma, proprio in parallelo con quanto Don Gianni sottolineava anche in precedenza, un rapporto vivo con quel Dio che diciamo di adorare, di riconoscere come Signore, e lo stesso deve accadere anche con Maria. Il vertice del mistero d'amore si consuma nella croce, e proprio dalla croce Gesù ci ha affidati, attraverso il discepolo amato che è Giovanni, a sua madre come mamma della Chiesa e dell'umanità intera, ed è fondamentale imparare a guardare a lei. Credo che uno dei più bei messaggi della esistenza dell'eternità beata per tutti coloro che accolgono il Vangelo di Cristo sia proprio il fatto che la Madonna appare così sovente tra gli uomini oggi, perché vedere la Madonna viva, come testimoniano i veggenti, è una delle esperienze più belle, è proprio il vedere coi propri occhi, direi quasi toccare con mano, come il paradiso esiste, come la resurrezione è vera, perché Maria è la primizia dei risorti. E allora anche quando si cammina attraverso questa buona notizia vivente che è il Vangelo di Cristo, e in compagnia di Maria si fa proprio l'esperienza di questa apertura della vita che diventa un paradiso che può cominciare già adesso. Vediamo se abbiamo altre chiamate in linea. Pronto? Prego. Sì, mi chiamo Pierluigi e telefono da Merate in provincia di Lecco. Ecco, io avevo due domande da fare alla Don Gianni. Sì, la prima è questa, cioè ho sentito prima di questa scuola per i ragazzi, no? E mi sembra un'iniziativa molto bella, anche perché parlava del bisogno dell'altro, e io penso che noi abbiamo una mano che tendiamo un po' per dare, ma anche un po' per ricevere, no? Perché tutti abbiamo qualcosa da dare e tutti abbiamo qualcosa da ricevere, e penso che questo tipo di pensiero non possa far altro che bene a dei giovani ragazzi. E poi volevo chiedere a Don Gianni se questa scuola di evangelizzazione è mista oppure se è riservata solo ai ragazzi o solo alle ragazze. Grazie, l'ascolto per radio. Grazie. Sì, la scuola di evangelizzazione è sia per i ragazzi che per le ragazze, quindi è una scuola mista, e questa è anche una ricchezza. E quindi, siccome è un monastero, i ragazzi vivono da un lato, da un'ala del monastero, e le ragazze da un'altra. Quindi c'è una mixità, però allo stesso tempo c'è anche con una separazione, anche se poi la vita e i servizi poi vengono fatti insieme, per cui ecco, i ragazzi si incontrano la mattina per le lodi e poi si salutano, ecco, con la compieta, e poi ognuno, ecco, va nella propria camera, e questa, ecco, è riservata per loro. Bene, cari amici, approfitto di questi ultimi minuti, avendo dato Don Gianni comunque i riferimenti, e potrete poi anche contattarlo direttamente tramite il sito scuoladievangelizzazione.it, ma ne approfitto, Don Gianni, visto che abbiamo ancora qualche minuto, invece per chiederti questo. Nel momento in cui parli di evangelizzazione di strada, fai riferimento a ragazzi che possono anche essere molto lontani da quelle tematiche che si ascoltano quando magari si frequenta la chiesa, la parrocchia, o si pratica una vita cristiana, e spesso per riuscire a entrare nel cuore così complesso e ferito dei giovani bisogna partire dai loro bisogni. Allora, ecco, ti chiedo quali sono i bisogni più urgenti dei giovani d'oggi, cioè quando devi suggerire ad un giovane che voglia provare a entrare in questa missione, quali chiavi suggerisci di utilizzare per aprire il cuore dei giovani che spesso è così chiuso? Come si riesce a entrare in questa cortina spesso così impermeabile? Come arrivare a farli aprire e ad accogliere questo annuncio di vita nuova che è Cristo? Ma la prima cosa importante è l'ascolto. Cioè, non è che andiamo in strada e partiamo subito, no, con dire Cristo è risorto, Dio ti ama, no, prima ci mettiamo in ascolto dei giovani, per cui andando in strada ci presentiamo, ciao, come ti chiami, cosa fai, ecco, e cerchiamo, ecco, di ascoltare. E dall'ascolto attivo, quindi i giovani spesso aprono il loro cuore, cioè è incredibile come giovani che non conosci ti aprono il cuore e ti raccontano cose che forse non hanno mai raccontato. E questo, ecco, penso sia importante proprio l'ascolto. Questa è una grazia che ci ha lo Spirito Santo, perché Gesù ci dice andate, ecco, sarà lo Spirito, no, a parlare, sarà lo Spirito a ispirarvi. Quindi penso che la prima cosa importante è proprio ascoltare, entrare proprio in punta di piedi nel cuore dell'altro, nel cuore del giovane, e innanzitutto, ecco, con lo sguardo, con l'accoglienza, ecco, e questo, ecco, apre spesso i cuori. Poi di solito quando facciamo meditazione in strada apriamo anche la chiesa di notte, e quindi lì proponiamo ai giovani di entrare in chiesa, e posso dirti che succedono dei miracoli quando i giovani entrano in chiesa, succedono delle cose incredibili. C'è chi poi viene a confessarsi dopo anni e anni, che piange davanti a Gesù, è veramente è una grazia incredibile. Quindi la prima cosa è l'ascolto, e questo è molto importante, perché se si parla a qualcuno senza prima aver ascoltato si rischia di entrare in un dibattito, no? Come se dobbiamo, ecco, portare la nostra idea, ma l'evangelizzazione non è portare la propria idea, l'evangelizzazione è annunciare Cristo, dice Francesco, andate e annunciate, se necessario anche con le parole. Allora la prima è la testimonianza, la prima è l'ascolto, poi viene la parola, ma viene dall'ascolto, e questo è molto importante. Quando tu hai ascoltato l'altro, lo Spirito Santo ti suggerisce una parola, e spesso, ecco, arriva, allora magari entrano anche in chiesa e si apre il cuore. Poi il punto successivo è anche la testimonianza, cioè raccontare anche un po' la propria storia, cioè mettersi veramente in gioco, e quindi quando qualcuno parla di qualcosa, ecco, spesso, ecco, raccontiamo brevemente anche un po' la nostra storia. Questo prima hai citato un'esperienza importante, che è quella di una luce nella notte, e sì, mi sembra che sia forse l'occasione vera per sperimentare che chi veramente opera nei cuori è proprio il Signore. Puoi spiegarci bene come funziona questa esperienza e magari dare testimonianza di qualche evento particolarmente significativo che ti è capitato di vedere durante queste iniziative? Sì, allora è un'esperienza in cui noi apriamo la chiesa di notte di solito, quindi dalle 9:30, 10 fino a mezzanotte, l'una, ecco, dipende dai luoghi in cui siamo. A Firenze la facciamo tutti i mesi, ormai da 15 anni penso, ogni secondo sabato del mese. Abbiamo iniziato a farla a Santa Croce, poi abbiamo fatto Santo Spirito in varie chiese di Firenze. Si apre la chiesa di notte, si espone Gesù all'altare. C'è un piccolo gruppo che fa animazione con canti di adorazione molto soft, poi mettiamo sotto l'altare, quindi due cestini, uno in cui c'è scritto Gesù ti ascolta, l'altro Gesù ti parla, e poi all'ingresso della chiesa c'è un banchettino che fa accoglienza, e in cui ci sono dei giovani che accolgono chi entra in chiesa, e gli viene proposto questo: scrivere su un fogliettino di carta una preghiera, portarla davanti a Gesù, accendere un lumino e pescare una parola del Vangelo. E poi gli si propone la confessione. Questo è il percorso. L'evangelizzazione fuori in strada, l'ingresso in chiesa, l'accoglienza, gli viene dato un fogliettino, una penna, un lumino, si mettono sulla panca, entrano un po' in se stessi, fanno una preghiera, la portano davanti a Gesù e pescano una parola. E spesso il Signore risponde proprio, c'è dei giovani che veramente si commuovono. Io mi ricordo una ragazza che veramente aveva ecco, abortito e quindi non osava entrare in chiesa, si vergognava di entrare in chiesa. E questa ragazza è entrata in chiesa, ha scritto la preghiera, è andata davanti a Gesù, ha pescato una parola e ce l'ha scritto. Può una madre dimenticarsi del proprio figlio? Anche se questa si dimenticasse, io non mi dimenticherò mai di te. E lei lì è scoppiata a piangere, ma veramente, poi è andata a confessarsi e è uscita dalla chiesa che era trasfigurata, ma veramente. E la cosa impressionante sono le confessioni, persone che vengono a confessarsi. Questo è un piccolo fioretto, ma ce ne sono tantissimi, tantissimi, perché quando Gesù è esposto nell'Eucaristia ha un'attrazione incredibile, veramente le persone che entrano in chiesa e vedono Gesù esposto, anche se non sanno chi è, però ecco, sentono che c'è una presenza. Voglio chiederti una cosa relativamente ai giovani che credo siano all'ascolto e che, come tanti di quei giovani che incontro ogni giorno, che portano anche domande grandi nel cuore, in questo momento fanno fatica perché le varie restrizioni, i vari impedimenti agli spostamenti, a volte uno si trova chiuso in casa. Un consiglio pratico per chi ha quelle grandi domande e che si chiede chissà Dio che cosa vuole da me, come può in questo tempo, in questi giorni dove c'è tanta solitudine e spesso si trovano ancora le chiese chiuse, com'è possibile che un giovane trovi questa risposta? Come può ascoltare il Signore? Guarda, io in questo tempo di lockdown ho sentito tanti che hanno incontrato il Signore, alcuni attraverso delle messe che hanno visto online o delle testimonianze del Papa, altri hanno cominciato a leggere il Vangelo così, ogni giorno. Hanno cominciato a leggere il Vangelo ogni giorno e pian pianino, ecco, hanno fatto un'esperienza incredibile di Gesù. Una signora mi raccontava veramente questa esperienza qua. E quindi a un giovane gli direi, se in questo momento tu hai del tempo, fermati veramente, prendi il Vangelo e comincia a leggerlo, ad ascoltarlo. E sono gocce, no? Una goccia oggi, una goccia domani, pian pianino, questo Vangelo scava dentro il tuo cuore e non ti rendi neanche conto, ma cominci a sentire una pace, cominci a sentire una gioia. E quella parola di Gesù che dice, no? Quando preghi, entra nella tua camera, no? E prega nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ascolterà. Allora ecco, il nostro cuore forse è la parte più bella, quella stanza segreta, quella parte intima di noi che magari non riusciamo a dire a nessuno, però ci possiamo mettere in un luogo della casa, la camera, fare un angolo di preghiera, insomma, mettere un'icona, mettere l'immagine della Madonna, accendere un lumino, mettere un po' di incenso, farsi il segno della croce, fare un'invocazione allo Spirito Santo, cioè mettersi veramente in ascolto e leggere la parola di Dio. Io penso che pian pianino così il Signore ci possa ascoltare. Anche iniziare a pregare il rosario. La Madonna ce lo dice, no, se voi pregate, ecco, il rosario io vi aiuto. Una cosa che sto vedendo nei giovani è proprio l'amore che hanno per la Madonna. Se io penso per esempio ai ragazzi della comunità Cenacolo, che veramente attraverso il rosario la Madonna gli trasforma il cuore. Allora penso che sono le piccole cose che possono cambiare il nostro cuore. Non fare grandi cose, ma le piccole cose. Certo, Don Gianni, io ti ringrazio e purtroppo il tempo a nostra disposizione sta terminando. Voglio ringraziarti davvero, te e tutti i ragazzi della scuola, per la testimonianza anche loro che attraverso di te è arrivata alla grande famiglia di Radio Maria. Quindi davvero ringraziandoti, ovviamente assicuro anche la preghiera da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori. Ringrazio poi coloro che hanno partecipato con la preghiera, con le domande, con l'ascolto a questa trasmissione e che, come sempre, spero rinnovi il desiderio di paradiso nel cuore di ognuno di noi. E poi vi chiedo di restare uniti nella preghiera, anzitutto per il Santo Padre, per la Chiesa, per tutte le persone sofferenti nel corpo e nello spirito, per tutti coloro che direttamente o indirettamente sono nel dolore anche per questa pandemia. Davvero affidiamo tutte le intenzioni al Signore e io rinnovo l'appuntamento da parte di Diego Manetti al prossimo primo sabato del mese. Una santa notte a tutti. Grazie, buonanotte a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.